voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Laura Ferrari, formaggi, tradizioni e grande distribuzione, di Alessandra Scaglioni. Le radici dell'azienda di cui parliamo oggi sono lontane quasi 200 anni. L'azienda è Ferrari, produce formaggi in Lombardia, ha un fatturato di 140 milioni di euro e 170 dipendenti e nasce molto tempo fa dalle tradizioni del territorio. Ce la racconta Laura Ferrari. La data di fondazione della nostra azienda è scritta nel marchio, 1823. E questa era la data impressa su una colonna del caseificio originario a Secugnago. Questo caseificio apparteneva alla famiglia Rossi, la famiglia della nostra bisnonna, Rosa Rossi. Rosa sposò Giovanni Ferrari. E anche i Ferrari nell'Ottocento producevano formaggi, lo facevano in una grande cascina, la cascina La Grande di Mairago, dove trasformavano appunto il latte lì prodotto. Origini nella terra e nel latte, con il nuovo secolo i formaggi Ferrari dalla Lombardia arrivano a Napoli. Prosegue l'attività e nei primi decenni del Novecento i prodotti, soprattutto il burro, arrivano in tutta Italia. Già nel dopoguerra sono tra i più grandi e più organizzati caseifici della zona. Tra gli anni 40 e 50 la presenza si allarga ad altre città. Gli anni 40 sono stati sicuramente degli anni molto duri per l'azienda e poi negli anni 50 degli anni di rilancio, dove mio padre con le sue sorelle ha un po' riorganizzato l'azienda e l'ha riorganizzata anche costituendo dei depositi nelle principali città e questo perché per ragioni logistiche. E a Milano, per esempio, c'era un deposito che serviva anche tutte le mense delle grandi aziende e la gamma comprendeva anche i prodotti freschi della tradizione lodigiana, la crescenza, il mascarpone, e questo è stato proprio un periodo di rilancio dell'attività. Arriviamo così agli anni 60, quando il padre di Laura Ferrari, Giovanni, capisce le potenzialità della grande distribuzione, che sta prendendo piede anche in Italia, e ha l'idea di sviluppare la produzione dell'azienda in questa direzione. All'inizio degli anni 60, mio padre, che aveva sia una grande passione per i viaggi, poi lui commerciando molto con il burro, va anche in Francia per frequentare una famosa scuola di degustazione del burro. Inizia a viaggiare molto in Europa e vede che la distribuzione negli altri paesi era più avanzata rispetto al nostro paese e quindi intuisce lo sviluppo imminente in Italia della distribuzione moderna. Così diciamo che lui combina quella che è la tradizione di generazioni di formaggiai con quello che era un po' il suo spirito, uno spirito più aperto, imprenditoriale, di commerciante e la sua passione per la tecnologia. E quindi inizia a studiare formati nuovi, modi per proporre questi formaggi sugli scaffali della distribuzione che stava arrivando nei fine anni 50, inizi anni 60 in Italia. L'azienda cresce, differenzia i prodotti, rafforza la sua presenza sul mercato e oggi la produzione segue due filoni. Ci sono state, come dicevo, delle pietre miliari nella nostra storia, sicuramente gli anni 60, 70, quindi i formaggi, buoni formaggi per la distribuzione moderna. E poi gli anni 80. Negli anni 80 abbiamo lanciato quello che oggi è diventato il core business della nostra azienda, cioè una linea di formaggi grattugiati. Il nostro marchio più conosciuto è il marchio Grand Mix e questi sono dei cocktail di formaggi già grattugiati pronti per l'uso culinario. Questa è stata un'altra idea veramente pionieristica e io posso dire questo perché con Grand Mix la nostra azienda ha aperto un nuovo comparto, quello dei formaggi grattugiati freschi, cioè di qualità, che hanno incontrato il favore del consumatore e anche oggi in tempi insomma di crisi è un comparto che continua a crescere. Oggi, nonostante la crisi, il fatturato è significativo e le prospettive di crescita riguardano anche l'estero. Oggi Ferrari esporta in diversi paesi europei, come Francia, Germania, Regno Unito e Belgio, e sul mercato statunitense. Noi fatturiamo 140 milioni e abbiamo 170 dipendenti diretti. Noi siamo presenti su tutto il territorio nazionale, però principalmente negli ultimi anni lo sviluppo viene dai mercati esteri. Noi stiamo superando il 15% del fatturato verso l'export, e questo sì ha avuto un'accelerazione negli ultimi anni, perché proprio per un progetto dedicato all'export noi abbiamo fatto una grande alleanza, e quindi qua si inserisce una scelta strategica molto importante nella vita dell'azienda, che è questa alleanza con il gruppo Bongren. E il gruppo Bongren è un grande gruppo, una multinazionale, che si definisce leader nelle specialità casearie. Noi siamo diversi per dimensioni, loro fatturano quasi 4 miliardi di fatturato, sono quotati alla Borsa di Parigi, però siamo molto vicini nei valori, perché loro sono ancora un gruppo dove la famiglia Bongren è fortemente presente. L'alleanza nata con l'idea di importare prodotti esteri in Italia, che si è sviluppata con l'export verso altri paesi di prodotti italiani e con un nuovo brand che unisce la firma di Giovanni Ferrari ed il tricolore per sottolineare il valore del Made in Italy. Quando ci siamo conosciuti, per trattare di un progetto che riguardava in realtà il mercato italiano. Abbiamo pensato come insieme avremmo potuto fare qualche cosa per gli anni difficili che ci trovavamo ad affrontare, e abbiamo costituito questa alleanza per la quale Ferrari collabora nel piano commerciale, nel piano logistico per la distribuzione di formaggi francesi nel nostro territorio. Questa prima fase ha avuto un buon successo, tanto che abbiamo pensato di ribaltare questa alleanza verso l'export. Nel 2011 siamo partiti con il primo lancio nei paesi francofoni, quindi la Francia, il Belgio, e abbiamo rilanciato quei prodotti che sono più identificativi della nostra identità. Quindi i prodotti della tradizione italiana, i grandi formaggi della tradizione italiana, il parmigiano reggiano, il grana padano e dei formaggi grattugiati, miscele per l'uso culinario. Nella linea della tradizione arrivano poi due novità. Una di prodotto ed una legata alla partnership con Slow Food, attivata nel 2013, che unisce il parmigiano reggiano, prodotto di montagna, ed alcuni sapori dei presidi Slow Food, come mieli o composte di piccolissimi produttori. Nel 2008 abbiamo acquisito un caseificio nell'Alta Valtaro, che è un posto incantevole. Lì produciamo il parmigiano reggiano di montagna, prodotto di montagna. Prodotto di montagna è una denominazione regolamentata, quindi questo significa che viene prodotto in determinate, ben individuate zone. Prodotto di montagna però vuol dire anche qualcosa di più, perché significa anche sostenere l'agricoltura nelle comunità montane, quindi laddove fare agricoltura è più difficile, ma è essenziale per la tutela dei territori. Poi noi abbiamo anche dallo scorso anno intrapreso una partnership con i presidi di Slow Food. Questo progetto, ma per quella che è sempre stata la vocazione dell'azienda, cioè portare prodotti della grande tradizione casearia laddove la gente va a fare la spesa. Quindi cercare di portare i prodotti, piccoli prodotti dei piccoli produttori, dei presidi di Slow Food nella distribuzione moderna, nella grande distribuzione. La sede principale dell'azienda resta nel suo territorio nazionale, a Ossago Lodigiano. Qui e nell'altro sito produttivo a Fontevivo, vicino a Parma, vengono attuate le attività di selezione, stagionatura, posizionatura, grattugia e confezionamento. Nell'Alta Val di Taro, invece, c'è il caseificio, che produce il parmigiano reggiano prodotto di montagna, con latte raccolto esclusivamente dai 5 comuni dell'Alta Val di Taro. Alla guida dell'azienda oggi ci sono le tre sorelle Laura, Silvia e Claudia, anche se Giovanni Ferrari, che ha superato gli 80 anni, è presente. Per noi entrare in azienda è stato quasi, insomma, un'evoluzione quasi un po' spontanea. Quando noi eravamo piccole, lo stabilimento era vicino alla nostra casa, quindi la situazione era, come dire, un po' casa e bottega. Poi mio padre ci ha sempre molto coinvolto nel suo lavoro. Quindi questo ha comportato che dopo la fine dei nostri studi abbiamo fatto una breve esperienza fuori dall'azienda, ma poi ci siamo voluti impegnare per continuare la tradizione della nostra famiglia. Silvia si occupa principalmente del marketing, io ho la carica di amministratore delegato e a me riferisce principalmente l'area commerciale Italia Export e la direzione acquisti, mentre Claudia si è dedicata alla assicurazione qualità e la produzione, diciamo tutta l'area operation. Per noi un riferimento fondamentale è anche nostro cognato Carlo, che si occupa di tutto quello che è l'amministrazione, la finanza e l'IT. Diciamo, quindi è una famiglia molto presente, e forse perché noi siamo tre donne abbiamo questo stile di leadership condivisa e cerchiamo di trasmettere un po' questo nostro stile di lavoro in team anche verso i nostri collaboratori, perché chiaramente l'azienda ha una struttura manageriale. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.